L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti al consueto ripasso dell'ultima settimana di notizie. Cominceremo da sabato scorso 6 giugno e arriveremo fino a ieri venerdì 12 giugno. Il punto centrale, almeno se guardiamo le cose attraverso l'ombelico di casa nostra, l'ombelico italiano o più in generale europeo, è sicuramente rappresentato dalle elezioni di sabato e domenica scorsi. Naturalmente dedicheremo ampio spazio, lo spazio dovuto ai risultati e ai commenti delle elezioni. Ma ci sono molte altre cose prelibate da ricordare, molto diverse tra loro, ma altrettanto epocali nei loro rispettivi campi. Per esempio c'è la fine, la coda del viaggio di Obama in Europa, con in particolare la celebrazione, il ricordo dello sbarco in Normandia, e poi lo stratosferico, straordinario, incredibile, non trovo più aggettivi, passaggio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid per una cifra record davvero pazzesca. Partiamo allora con il nostro viaggio attraverso i servizi già trasmessi nei GR di Radio 24. Sabato. Partiamo dunque da Obama, perché la settimana scorsa l'avevamo lasciato appena sbarcato in Europa con la tappa toccante di Buchenwald, la visita nel campo di concentramento nazista, e Obama era appena arrivato in Europa dalla sua lunga parentesi in Medio Oriente con il discorso già storico del 4 giugno al Cairo. E sabato Obama, il presidente americano, è in Francia, dove peraltro rimane un giorno in più rispetto al protocollo previsto su esplicita richiesta del presidente francese Sarkozy. La tappa francese prevede momenti solenni, in particolare le celebrazioni del D-Day in Normandia, mentre moglie e figlie soprattutto fanno le turiste a Parigi. Sentiamo allora Sergio Nava sulla commemorazione del D-Day e poi Cristina Carpinelli sui dettagli dell'incontro ufficiale con Sarkozy. Friends and veterans, we cannot forget. What we must not forget is that D-Day was a time and a... Barack Obama riannoda nello sterminato cimitero militare di Colville-sur-Mer, a pochi metri dalle coste della Normandia, il percorso di rievocazione storica iniziato il giorno prima nel campo di sterminio nazista di Buchenwald. È davanti a 288 veterani dell'ultima guerra che l'uomo del cambiamento rende omaggio alla generazione che, parole sue, cambiò il corso della storia. Esattamente in quel punto, 65 anni prima, le truppe alleate, al prezzo di 10.000 tra morti e feriti, posero le basi della successiva sconfitta del nazismo. Obama, come se tenesse in mano un libro di storia, ne sfoglia le pagine più drammatiche mentre i soldati di allora le rivivono con la mente, fotogramma dopo fotogramma. E così l'emozione è al massimo quando Nicolas Sarkozy consegna la Legione d'Onore a quattro reduci. Prima però dice: Je veux dire merci aux derniers vivants de cette tragédie. Rendo omaggio a tutti questi soldati, la Francia non li dimenticherà mai. Poche ore prima Barack Obama aveva vissuto la sua ennesima giornata da star, con centinaia di persone ad attenderlo a Caen per il suo incontro bilaterale con il presidente francese. Barack Obama ricorda a Pyongyang che gli Stati Uniti non ammetteranno all'infinito una politica che premia le provocazioni, poche frasi pronunciate dalla Normandia, dove Obama si trovava per celebrare il 65esimo anniversario dello sbarco. Un viaggio, quello del presidente degli Stati Uniti in Europa, che si conclude tra le ovazioni dei parigini. Poco prima era stato Sarkozy a dichiarare il massimo omaggio all'America. Noi vi dobbiamo la nostra libertà, mai la Francia dimenticherà. Fronte unito Obama-Sarkozy anche su come far ripartire i negoziati in Medio Oriente. Per il presidente degli Stati Uniti la speranza è che ora prendano il via negoziati seri e costruttivi tra le due parti, basati sulla soluzione dei due stati. Sarkozy, dal canto suo, dice di concordare con la richiesta di Obama ad Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti nei territori occupati. Sul fronte iraniano, Obama usa il concetto di diplomazia dura per affermare la pericolosità di un Iran con armi nucleari, senza però chiudere la porta al dialogo. Sul lungo tour di Obama in Medio Oriente prima e in Europa poi, questa è invece l'analisi di domenica mattina fatta da Marta Dassù, direttrice di Aspenia. Prima al Cairo, poi a Buchenwald e poi in Normandia. Il viaggio di Obama con i suoi simboli, con al centro il rapporto fra memoria e presente, è stato un grande esercizio di diplomazia pubblica. Obama ha parlato prima di tutto alla gente, non ai loro governi. Ha preferito Dresda a Berlino, ha evitato la cena a Parigi con Sarkozy. Ha lanciato messaggi etici prima che diplomatici, emotivi prima che pratici. È il metodo Obama applicato alla politica estera, il presidente che utilizza e propone se stesso, la sua biografia e i suoi valori come essenza del potere dell'America. Poi seguirà la diplomazia con inviati speciali del Dipartimento di Stato. Il metodo è simile a quello di politica interna. Il presidente parla agli americani prima che al Congresso e per forzare la mano al Congresso. È il modo con cui Obama ha vinto la campagna elettorale, ma a cui da presidente non intende rinunciare. Si è formata così una nuova forma di organizzazione politica che scavalca i vecchi partiti. In qualche modo è il partito del presidente. Vedremo se questa forma di populismo postmoderno in America e sulla scena internazionale funzionerà. E adesso spaziamo in due aree del mondo alle quali sicuramente Obama guarda con grande attenzione. La prima è un vecchio cruccio di Bush, faceva parte dell'asse del male, degli stati canaglia segnati dalla precedente amministrazione americana, e forse rappresenta anche l'unica zona del mondo in cui anche i peggiori nemici dell'ex presidente americano, insomma, riconoscono dei meriti o perlomeno nessuna colpa. Sto parlando della Corea del Nord, dove arriva all'inizio della settimana una sentenza davvero strana e preoccupante. Da Seul ci racconta tutto Stefano Carrer. 12 anni di lavori forzati, ciascuna. È più dura di ogni previsione la condanna inflitta dal Tribunale Centrale Nordcoreano a due giornalisti americani in un processo durato solo dal giovedì al lunedì. Laura Ling e Yuna Lee, catturate il 17 marzo scorso in una zona al confine con la Cina, sono state riconosciute colpevoli di un grave crimine contro la nazione, connesso all'ingresso illegale nel paese. Il procedimento si è svolto a porte chiuse e la decisione è già definitiva, in quanto non è previsto ricorso in appello. Vari esperti ritengono che ora il regime possa utilizzare le due giornaliste in una logica di scambio. Pyongyang potrebbe desiderare l'arrivo di un alto esponente americano che venga a riprendersele ponendo le basi di qualche concessione. Nel weekend il segretario di Stato Hillary Clinton non ha escluso che gli Stati Uniti possano reintrodurre la Corea del Nord nella lista degli stati sponsor del terrorismo, dalla quale era stata tolta alla fine dell'anno scorso. Intanto i nordcoreani hanno emesso un divieto di navigazione in varie aree del Mar del Giappone dal 10 al 30 giugno. Segno che stanno preparando il lancio di altri missili. Ed ora torniamo qui vicino a casa nostra, in Medio Oriente, dove Obama, l'abbiamo appena ricordato, è appena stato e forse per qualcuno ha persino influenzato il voto in Libano di domenica scorsa. Infatti in Libano ci sono state delle strane elezioni, insomma, con una base maggioritaria ma anche con un forte connotato confessionale. La vittoria va a Saad Hariri, leader dell'alleanza filo-occidentale 14 marzo, che la stampa locale anche in queste ore dà ormai per sicuro prossimo premier. In realtà si tratta di una riconferma per lui. E nel nuovo governo, peraltro, che troveremo formato soltanto a fine mese, dopo il 30 giugno. Sentiamo il commento a caldo delle elezioni da Beirut di Ugo Tramballi. La vittoria è indiscutibile, la maggioranza parlamentare è assoluta, i moderati del fronte del 14 marzo potrebbero anche governare da soli, ma il Libano non è un paese come gli altri. Per funzionare la strana democrazia di questo paese non ha bisogno di un'opposizione, ma dell'inclusione, della partecipazione nell'esecutivo di tutte le confessioni, anche quelle sconfitte dal voto. Tutte hanno una forte rappresentanza popolare, ogni gruppo ha un arsenale nascosto da qualche parte pronto ad essere usato e quasi tutti hanno amici potenti all'estero. Sauditi, egiziani, siriani, iraniani, americani, francesi. Anche vincendo in questo modo, il sunnita Saad Hariri, il leader del fronte moderato del 14 marzo, dovrà trattare con le opposizioni. L'equazione più difficile sarà di includerle nel nuovo governo senza che ne paralizzino l'attività. Passate le elezioni, è su questo che ora si gioca la stabilità del Libano. Esattamente lo stesso problema che c'era prima delle elezioni. Domenica. Chiamiamolo preludio sportivo a quello che poi sarà il piatto forte di questa seconda parte dell'ottavo giorno, che si concentrerà sulla grande abbuffata del dopovoto alle europee e amministrative. Lo sport di settimana, bisogna dirlo, regala più di una prelibatezza. C'è sempre da un lato la Formula 1 impazzita, in gara, in pista continua a vincere la Brown, però fuori è ormai guerra aperta, dichiarata apertissima, tra la Federazione Internazionale da una parte e i team dall'altra, con la Ferrari in testa a guidare la protesta. Sorvoliamo per carità di patria sulla nazionale di calcio italiana, che insomma nell'amichevole di metà settimana con la Nuova Zelanda non ha certo lasciato un ricordo indelebile, ma noi invece ci concentriamo su due storie che a modo loro sono da record. Cominciamo dal tennis, con l'impresa firmata domenica scorsa da Roger Federer. Il servizio è di Dario Puppo. Adesso che ha fatto suo anche il Roland Garros, al bar del tennis torneranno a chiedersi se Roger Federer sia il più grande della storia del suo sport. Di certo, con il successo in 3-7 sullo svedese Söderling nella quarta finale consecutiva dei French Open, lo svizzero può vantare un palmarès difficilmente eguagliabile. Con il successo di Parigi, Federer ha eguagliato il primato di 14 major di Sampras, destinato a essere presto migliorato, è arrivato a 20 semifinali consecutive nelle prove dello Slam, impresa difficilmente ripetibile, ed è entrato nella ristretta cerchia di chi ha vinto almeno una volta i quattro più grandi tornei della racchetta. Oltre a lui, gli altri sono Perry, Budge, Emerson, Lever e Agassi. È stato proprio il kid di Las Vegas, di bianco vestito, a consegnare la Coppa dei Moschettieri a Federer, che resta il numero due delle classifiche mondiali dietro a Nadal, ma da oggi entra nella storia. E adesso Ziegfeld Follies, potremmo dire così, le follie del calcio nel suo versante peraltro più pirotecnico e incredibile, cioè il mercato. Infatti Kakà diventa ufficialmente in settimana un giocatore della Madrid per oltre 60 milioni di euro, il passaggio dal Milan alla grande squadra spagnola. Ibrahimovic spinge sempre di più per andare via dall'Inter, anche lui forse si accaserà in Spagna, però al Barcellona. E poi insomma arriva giovedì ed è una giornata che annulla tutto quello che abbiamo detto finora, perché il colpo grosso è ancora realizzato dal Madrid e questo davvero polverizza ogni altro discorso. Sentiamo Giovanni Capuano. In principio furono i 140 miliardi di lire messi sul piatto della Juventus per portare a Madrid Zinedine Zidane. Era il 2001, sembrava una cifra irraggiungibile, fino al via libera del Manchester che ha autorizzato Cristiano Ronaldo a trattare con Florentino Perez, accettando l'offerta da 80 milioni di sterline e 94 milioni di euro fatta dal Real per l'esterno portoghese. Fuori dal linguaggio burocratico è l'annuncio del secondo colpo galattico della nuova era Perez dopo quello di Kakà. L'accordo tra club e giocatore ovviamente c'è già, sono stati proprio i procuratori di Ronaldo a forzare la mano con il Manchester, guadagnerà 11 milioni di euro netti a stagione. Il 30 giugno la doppia presentazione a stampa e tifosi, sempre che nel frattempo Valencia o Bayern Monaco non abbiano ceduto le lusinghe sempre più pressanti per David Villa e Ribéry. Florentino Perez aveva annunciato di avere un budget da 300 milioni di euro, ovviamente tutti a debito, 160 li ha spesi nella settimana più folle che il calcio mondiale ricordi, ne restano ancora 140. Il progetto Real non è completato. Lunedì. Dai numeri astronomici del calciomercato, a proposito bisogna anche ricordare la liaison di Ronaldo con Paris Hilton, insomma, quindi le stanno dando tutte bene al grande campione portoghese. Insomma, diciamo, dai numeri astronomici del calcio passiamo ai numeri, anche questi insomma, che possono dare il mal di testa o per l'euforia, per l'ebbrezza oppure per la depressione, delle elezioni europee e amministrative di sabato e domenica. Le elezioni, l'ho detto, sono su un doppio binario: da un lato si vota per il rinnovo del Parlamento europeo in contemporanea con il resto degli stati dell'Unione e dall'altro c'è un'affollata tornata amministrativa che interessa proprio il nostro paese. Cominciamo dall'analisi del voto europeo. Prima sentiamo i risultati di due partiti più importanti dal punto di vista almeno numerico nella maggioranza e nell'opposizione. Prima Vincenzo Miglietta e poi Elisabetta Fiorito. Lontano dalla soglia del 40% prevista da Berlusconi, sotto al 37% raggiunto alle politiche dello scorso anno, svanisce anche la speranza che il PDL diventi con il voto alle europee il primo gruppo nel PPE. È la delusione e il sentimento più diffuso al quartier generale del Popolo della Libertà in via dell'Umiltà. Un risultato al di sotto delle aspettative riconoscono i vertici del partito, che puntano il dito sull'astensionismo e su una campagna elettorale in cui ha prevalso il gossip. Così il portavoce Capezzone. I politici che hanno scatenato questa campagna dovrebbero scusarsi con gli elettori per non aver parlato d'Europa, ma per avere solo gettato fango. Ed è già un miracolo che comunque tanti elettori siano lo stesso andati a votare. Sorpreso e deluso il presidente del Consiglio Berlusconi a questo risultato, confida il premier ai suoi collaboratori, ha contribuito la forse nata campagna contro di me che ha portato i suoi effetti. La maggioranza di governo è comunque cresciuta, commentano i capigruppo Cicchitto e Quagliariello, per i quali l'offensiva delle sinistre si è rivelata un boomerang. Il successo della Lega infine è una cosa positiva, dicono ufficialmente in via dell'Umiltà. Il coordinatore del PDL La Russa tuttavia precisa: l'unica cosa che forse bisognerà, come conseguenza di questo risultato, sottolineare è che dovremo come PDL stare attenti a fare in modo che i risultati del governo siano risultati del governo e non alcuni appartengano solo al ministro che apparentemente le fa. Il tanto temuto tracollo non c'è stato. Il PD regge a Sant'Andrea delle Fratte, sede del partito. La tensione si allenta già dalle prime proiezioni. La segreteria guidata da Dario Franceschini subisce un calo rispetto alle politiche. Alcuni voti confluiscono nell'IDV, ma non è l'apocalisse. Franceschini è soddisfatto. Il PDL non sfonda. Stessa tesi di Piero Fassino. Penso che segna certamente una battuta d'arresto. Si sono ridotti i consensi a Berlusconi, al Popolo della Libertà e al centrodestra. Abbiamo annunciato un congresso, andremo a questo congresso ad ottobre come era previsto. Sarà un congresso nel quale definiremo come dare ancora più consistenza e forza ad un progetto, quello del Partito Democratico, che in ogni caso questo voto conferma, consolida e stabilizza. Poco prima della chiusura dei seggi, il segretario convoca la Camera ai vertici del PD, fissa la direzione per il 26 giugno, subito dopo i ballottaggi, per aprire la fase precongressuale. Il risultato negativo dei socialisti in Europa premia poi gli ex Margherita, Franco Marini. Non ci spaccheremo, troveremo la soluzione tutti quanti assieme. Due gruppi con autonomia e politicamente alleati con quello socialista. Pronostici sul Popolo della Libertà, Pierluigi Castagnetti. E dunque il vero risultato, il vero effetto di queste elezioni sarà esattamente questo, che si spacca il PDL. Non solo PDL e PD protagonisti di queste elezioni, la lista di vincitori e vinti è lunghissima, come ci spiega questo servizio di Maria Chiara Grandis. Se c'è un dato che salta subito agli occhi è il grande successo della Lega Nord, che con il doppio dei voti rispetto al 2004, da partito macro-regionale, si afferma come forza nazionale. Il Carroccio guadagna inoltre preferenze in Emilia-Romagna e in Liguria, ossia in quelle regioni storicamente orientate a sinistra. Roberto Castelli spiega perché. Questo è un dato molto importante che ci consentirà di portare avanti le nostre battaglie con maggior forza. Evidentemente la politica che la Lega ha portato avanti quest'anno, in questo anno di governo, è stata apprezzata dai nostri elettori e anche da nuovi elettori. Soddisfazione anche per l'Italia dei Valori, che pensa ora alle future alleanze. Il leader Antonio Di Pietro. Un partito democratico, quel che sarà, dovrà decidersi da che parte stare e con chi stare. E mentre tiene l'UDC di Pier Ferdinando Casini. Non abbiamo fatto scandalismi, populismi di nessun tipo e siamo stati premiati. Scompare invece dal Parlamento europeo il Partito Radicale, così come la maggior parte delle forze della sinistra italiana che si sono presentate divise alle elezioni, fra il blocco Rifondazione Comunista, Sinistra Europea e Comunisti Italiani, lo schieramento Sinistra e Libertà e il Partito Comunista dei Lavoratori. Sorprese, colpi di scena, amarezze al voto europeo non mancano anche nel resto d'Europa, dove scatta peraltro l'implacabile conta di chi ha vinto e di chi ha perso. Riascoltiamo allora dal GR delle 7 di lunedì, Sergio Nava. Il risultato è stato netto e senza appello, al di là di ogni previsione. È il centrodestra ad aver vinto queste elezioni europee di crisi, con un'affluenza generale al minimo storico di poco superiore al 43%. Nonostante la martellante campagna di incoraggiamento al voto, i conservatori hanno conquistato quasi tutti i bastioni che contano nel vecchio continente, assicurandosi oltre un terzo dei seggi. La debacle vera l'hanno vissuta i socialisti, che in una notte vedono calare di 6 punti la propria presenza all'Europarlamento, finendo poco sopra il 21%. In realtà mancano al conteggio gli oltre 20 deputati del PD che potrebbero compensare in parte il calo. Scendono di poco i liberali, mentre crescono i verdi sull'onda del successo francese, superando i 50 seggi e il 7%. Infine la destra e la sinistra, entrambe poco sotto il 5%. Il centrodestra, dicevamo, conquista quasi tutti i principali paesi. In Germania la CDU-CSU si attesta intorno al 38%, mentre i socialdemocratici superano di poco il 20%. In Francia, se l'UMP di Nicolas Sarkozy si attesta al 28%, i socialisti per un pelo non subiscono l'umiliazione di un sorpasso dell'Europa Ecologie di Combendi, entrambe le liste al 16%. In Spagna i popolari centrano il sorpasso sui socialisti di Zapatero. In Gran Bretagna il crollo atteso dei laburisti, umiliati a doversi contendere il secondo posto con lo UK Independence Party. In Polonia infine vincono i liberali di Piattaforma Civica del premier Tusk col 45%. Altro dato che fa riflettere è l'avanzata dei partiti euroscettici, nazionalisti o xenofobi. In Olanda la vittoria di Geert Wilders, in Inghilterra il British National Party elegge il suo primo deputato, in Ungheria si afferma lo Jobbik, mentre ottengono buoni risultati pure i nazionalisti romeni e slovacchi. Dalle urne esce dunque un'Europa conservatrice, ma non solo, è un'Europa disillusa anche rispetto al progetto originario di integrazione, che snobba il voto o protesta affidando il proprio consenso agli schieramenti nazionalisti o xenofobi. Dopo questa corposa parentesi sul voto europeo, veniamo invece alle elezioni di casa nostra, alle elezioni amministrative. Su questo fronte il solco tra maggioranza e opposizione appare netto, anche se poi i conti finali li potremo fare soltanto dopo i ballottaggi di domenica prossima, del 21 giugno. Sentiamo però in diretta nel GR delle 7 di martedì tutti i numeri delle amministrative con Maria Luisa Pezzali. È una netta affermazione di Popolo della Libertà e Lega, il risultato politico della tornata di elezioni amministrative. La maggioranza conquista al primo turno oltre una ventina di province, strappandone molte al centro-sinistra che ne aveva 50. Successo al nord, in particolare in Veneto e Lombardia. A Milano Podestà del PDL ipoteca il ballottaggio con un 48,8% contro il 38,8% dell'uscente Penati del PD, ballottaggio anche a Torino e Venezia, ma successo, dicevamo, anche al sud. In Campania, alla provincia di Napoli, Cesaro del PDL batte col 59% l'ex ministro PD Nicolais. Il PD, per quanto riguarda le provinciali, tiene a Bologna e Firenze, conquistate al primo turno, arretra nel resto d'Italia e, passando invece alle comunali, si vede costretto al ballottaggio in Comune di Bologna, dove Del Bono del PD non ce l'ha fatta a strappare la vittoria al primo turno contro Cazzola del PDL, e il Comune di Firenze, dove Matteo Renzi del PD va al ballottaggio con Giovanni Galli del PDL. Tuttora sul filo di lana un'altra delle sfide clou per quanto riguarda i comuni, Bari, dove è in vantaggio Emiliano del PDL al 49,15%. Sono poche le sezioni, ma la percentuale è proprio sul filo di lana, quindi aspettiamo il dato definitivo. Sul totale dei 30 comuni capoluogo chiamati al rinnovo del sindaco, 9 vanno al primo turno al centrodestra, 5 al centrosinistra, gli altri vanno tutti al ballottaggio. Ora si prepara la battaglia appunto dei ballottaggi, in programma il 21 giugno, e si pone il tema degli equilibri all'interno della maggioranza. Onestamente non c'era posto per raccontare tutta la politica, anche convulsa, concitata di questi giorni. C'è per esempio lo scontro sul referendum, si voterà lo stesso giorno dei ballottaggi, scontro all'interno della maggioranza che Berlusconi ha cercato di smontare. Poi c'è lo scontro durissimo sul disegno di legge sulle intercettazioni, approvato giovedì alla Camera, però si prevede battaglia al Senato. Intanto Napolitano avverte di voler esaminare il testo prima di firmare. E infine c'è anche il CSM che si è dichiarato contrario al reato di clandestinità appena reintrodotto dalla maggioranza. Insomma, tante cose da dire, non c'era davvero il tempo. L'ottavo giorno. Martedì. Sono giorni cruciali per l'alleanza tra Fiat e Chrysler. Tutto ormai sembra definito nei minimi dettagli. Manca, come si dice in questi casi, soltanto la classica firma, ma ad inizio settimana ecco spuntare l'intoppo, il colpo di scena che potrebbe rallentare le operazioni addirittura per settimane. Riascoltiamo la cronaca proprio di martedì di Valeria De Rosa e poi l'analisi di Mario Platero da New York. Non ce ne andremo mai. Sergio Marchionne è definitivo e l'avverbio mai, pronunciato da uno come lui, misurato nelle parole, fa un certo effetto. La Fiat non ha alcuna intenzione di abbandonare l'accordo con Chrysler, neanche dopo la scadenza del 15 giugno. In origine, infatti, il Lingotto si era riservato un'opzione di disimpegno. Se la vendita della casa automobilistica non si fosse perfezionata entro metà giugno, Torino avrebbe potuto tirarsi indietro. Ora però Fiat ha rinunciato di fatto a quella possibilità. Dobbiamo essere pazienti, ha precisato Marchionne, e consentire al sistema di lavorare. In sostanza è successo quello che Torino avrebbe tanto preferito evitare. Lunedì il giudice Ruth Ginsburg ha accettato il ricorso dei 3 fondi pensione dell'Indiana, secondo i quali l'accordo viola le leggi sul fallimento. Il governo statunitense non ha il diritto di usare i fondi destinati alla finanza per aiutare l'industria dell'auto. Quindi la vendita di Chrysler a Fiat è congelata in attesa di altre disposizioni della Corte. Il problema, secondo alcuni, è che potrebbero essere necessarie settimane o mesi perché i magistrati prendano una decisione. Quello che la Corte Suprema dovrà analizzare è se la sentenza del giudice Gonzales, il giudice fallimentare, che ha stabilito chi veniva pagato quanto, in che termini e come, amministrando dunque la procedura fallimentare di Chrysler, che era in amministrazione controllata, per sistemare accordi con creditori, con lavoratori, con clienti, con i concessionari, e un accordo quadro che è stato raggiunto in corte fallimentare, un accordo quadro che era stato più o meno disegnato già dentro le stanze del Tesoro americano, d'accordo con Chrysler, d'accordo con Fiat, per salvare questa situazione. Se la Corte Suprema rileverà che il fondo pensione dell'Indiana è stato trattato ingiustamente, si deve capire quanto sarà rimesso in gioco. La verità è che se si tratta di 5 milioni di dollari si risolvono, ma se torna in ballo l'intero ammontare di credito, che era di 6-7 miliardi di dollari, la questione diventa complessa. In realtà Valeria De Rosa e Mario Platero ragionavano a conti fatti prima della svolta, questa volta definitiva, che arriva mercoledì. Il 10 giugno quindi è giornata da segnare sul calendario, perché segna proprio l'intesa ufficiale tra Fiat e Chrysler, che proietta peraltro Marchionne nel ruolo anche di amministratore delegato non solo della casa torinese ma anche della casa di Detroit. Sentiamo tutti i dettagli con Marco Ferrando. Gli impianti americani di Chrysler fermi da mesi si rimetteranno presto in moto. Parola di Sergio Marchionne, che ieri pomeriggio intorno alle 15 ora italiana ha messo la sua firma, l'ultima e decisiva, sul contratto che prevede la cessione dei principali asset Chrysler alla nuova società, in cui il Lingotto dispone di una quota del 20%. Da Torino arriveranno piattaforme e motori che consentiranno di puntare su auto anche medie e piccole, ma soprattutto ecologiche. Poi Fiat metterà a disposizione l'esperienza in fatto di ristrutturazioni aziendali e la rete di distribuzione, in particolare quelle presenti in Russia e Sud America. E sempre ieri si è aperta un'altra partita, questa volta tutta italiana. Protagoniste le regioni che ospitano impianti Fiat. Convocati a Roma dalla governatrice del Piemonte, Mercedes Bresso, i presidenti hanno deciso di proporre al governo e alla Fiat un piano da 800-900 milioni per la ricerca sull'auto pulita. Le regioni sono pronte a mettere sul tavolo 200-300 milioni. Al resto, ha detto la Bresso, dovrebbero pensarci l'esecutivo e il Lingotto. Mercoledì. Il centro di Roma è letteralmente paralizzato, lo sarà per diversi giorni, e chi vive nella capitale ha già capito di cosa sto parlando. Tutta colpa infatti di Gheddafi, il leader libico che sbarca in Italia per la sua prima visita ufficiale, a suo modo storica. Lasciamo stare il look improbabile del colonnello, mi è piaciuto molto ieri sulla stampa il paragone che ha fatto Grammellini, che ha paragonato appunto l'abbigliamento, la giacca in particolare, di Gheddafi a quelle utilizzate abitualmente da Michael Jackson. Però insomma la cosa importante è che ogni gesto, ogni parola di Gheddafi si trasforma poi in uno show non sempre raccomandabile. Cominciamo allora dal racconto proprio della giornata di mercoledì con Vincenzo Miglietta, poi ascolteremo la storia che si nasconde dietro la foto in bianco e nero che Gheddafi esibisce sulla giacca al suo arrivo. Ce la svela Alessio Maurizi. Una visita storica, quella del leader libico, nella capitale che di fatto chiude oltre mezzo secolo di polemiche tra i due paesi nate dall'esperienza coloniale. E quel periodo fa da sfondo al soggiorno romano di Gheddafi. Prima, al suo arrivo a Ciampino, la foto ostentata sul petto del capo della resistenza anti-italiana che fu ucciso da squadroni fascisti nel 31. Poi davanti al presidente della Repubblica Napolitano l'omaggio al nostro paese, che dice Gheddafi ha chiesto scusa per il colonialismo. L'Italia di oggi non è più l'Italia di ieri, oggi c'è pace, aggiunge il leader libico, collaborazione ed amicizia. Parole queste che il presidente della Repubblica Napolitano definisce di grande moderazione e responsabilità. Abbiamo potuto meglio conoscere e apprezzare la visione e le motivazioni che guidano l'impegno anche personale del colonnello Gheddafi per la costruzione di un'Africa integrata. Nel pomeriggio poi l'incontro con il presidente del Consiglio Berlusconi, diversi temi trattati, immigrazione, energia, la doppia imposizione fiscale. Le porte sono aperte alle aziende italiane, spiega Gheddafi, che definisce Berlusconi un uomo di ferro che con determinazione e coraggio ha preso la decisione storica di chiedere scusa al popolo libico per i danni del colonialismo. Tra Italia e Libia, replica il premier, è stata avviata una nuova stagione di pace, amicizia e collaborazione. Il leader riconosco una grande saggezza e riconosco che tutto ciò che lui è venuto dicendomi nelle crisi internazionali sono sempre state delle posizioni che fotografavano esattamente la realtà. Una foto, una storia. Quella puntata sul petto di Gheddafi è questa. 1911, l'Italia inizia la guerra contro la Turchia. L'anno dopo Istanbul è sconfitta e la Libia passa sotto il controllo italiano. I libici però non si rassegnano a essere una colonia e per 20 anni resistono, finché, sotto l'impulso del fascismo, sono sottomessi. Nel 1931 è arrestato uno dei loro eroi, Mohammed al-Mukhtar, detto il leone del deserto. L'immagine appesa all'uniforme del leader libico al suo arrivo ieri a Roma è l'istantanea di quell'arresto e il signore, in abito tradizionale, sceso dalla scaletta dell'aereo dietro a Gheddafi è per l'appunto il discendente dell'eroe cirenaico. È un po' come se Napolitano andasse in giro portando con sé un pronipote di Garibaldi, una botta d'orgoglio antico, oppure una provocazione, visto che proprio adesso che con l'Italia inizia una fase nuova, non sembra il massimo della lealtà andare a rispolverare vecchi simboli di contrapposizione. Ma forse più semplicemente è il vecchio riflesso condizionato dei regimi, e non dimentichiamo che quello di Gheddafi lo è ancora, che non possono fare a meno di farle vittime. L'Italia di oggi, che si offre di ricostruire mezza Libia, non c'entra niente con quell'epoca pur negativa del colonialismo, chiusa da quasi 70 anni. Infatti, quella foto e quella rimembranza eroica non è diretta a noi, ma al popolo libico, a dire: ricordate, i nostri nemici sono sempre allerta e a proteggervi ci pensa dalla sua tenda mimetica il vostro capo, naturalmente indiscusso. La giornata più densa della visita di Gheddafi in Italia è forse quella di giovedì. Infatti il colonnello al Senato e alla Sapienza fa partire i suoi fendenti più acuminati sul colonialismo, sul terrorismo e poi contro il nemico storico, gli Stati Uniti, anche se siamo in una fase questa di riappacificazione tra i due paesi. Poi in particolare all'Università Romana non mancano le contestazioni e anche qualche momento di tensione. Sentiamo ancora Vincenzo Miglietta. Prima il riferimento al colonialismo e al nuovo clima di amicizia con il nostro paese, poi l'affondo contro gli Stati Uniti su terrorismo ed Iraq. Una visita, quella di Gheddafi al Senato, che sarà certamente ricordata non tanto per le rafforzate misure di sicurezza a cui il palazzo è abituato, quanto per i toni dell'intervento del leader libico. Tradizionale tunica bianca, copricapo nero, Gheddafi apre il suo intervento salutando gli amici italiani che tanto hanno fatto per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi, Andreotti, Cossiga, Dini. Il superamento dei danni fatti dall'Italia fascista, spiega Gheddafi, è stato molto importante per arrivare alla firma del trattato di amicizia. Il capitolo terrorismo, poi, noi lo condanniamo, ma dobbiamo cercare di capire le vere ragioni di questo fenomeno, dice il colonnello, che provocatoriamente chiede: qual è la differenza tra l'attacco degli americani dell'86 contro le nostre case e l'azione terroristica che ha fatto Bin Laden? Quale differenza? Ma la critica di Gheddafi a Washington non si ferma qui. Grazie agli Stati Uniti, dice ancora il leader libico, oggi l'Iraq è diventato un'arena aperta per i terroristi di Al-Qaeda. Un sogno nel cassetto, infine, per il colonnello. Nel discorso del pomeriggio in Campidoglio, Gheddafi dice: annullerei tutti i partiti per dare il potere al popolo italiano. E proprio in concomitanza con la visita di Gheddafi in Italia riaffiora dal passato un film sul periodo proprio coloniale italiano in Libia, che era stato ormai dimenticato e sepolto nell'oblio, insomma, diciamo così. Sentiamo su questo Marta Cagnola. So that's what it looks like, the old lion. In Italia è stato vietato per quasi 30 anni, il bando precisamente nel 1982. Uscito in tutta Europa, Il leone del deserto fu proibito perché, per usare le parole dell'allora primo ministro Giulio Andreotti, danneggiava l'onore dell'esercito. Nel 1987 la Digos irruppe e bloccò con dispiegamento di forze una proiezione in un cinema di Trento. Il tutto si concluse con un processo. Our civilization and your culture, a marriage of virtues. All'inizio degli anni Ottanta, Muammar Gheddafi decise di finanziare un film colossal sull'eroe beduino Omar Mukhtar, Il leone del deserto, con il meglio dello star system di allora. Il film raccontava le nefandezze compiute dal colonialismo italiano nell'Africa del Nord, quando l'esercito guidato dal generale Rodolfo Graziani deportò intere popolazioni seminomadi. Nel film Gheddafi fece inserire almeno una bugia, distinguendo il ruolo di Mukhtar dalla confraternita islamica dei Senussi, di cui re Idris era la bandiera. Voleva che diventasse un prode cavaliere solitario per potersene proclamare erede. E anche la giornata di ieri, venerdì, la terza della visita di Gheddafi in Italia, è fitta di appuntamenti e anche di spostamenti, con tutti poi i problemi del caso, soprattutto per i poveri romani, da una parte all'altra della capitale. Ecco il resoconto nel GR delle 19 di ieri. Sempre in ritardo nei suoi appuntamenti romani, questa volta il colonnello sembra avere esagerato, almeno così la pensa il presidente della Camera Fini, che dopo due ore di attesa ha annullato la manifestazione organizzata dalla Fondazione Italiani e Europei in onore proprio del leader libico, considerato che il ritardo di Muammar Gheddafi, ha detto Fini, non è stato giustificato in alcun modo. Per questa ragione, nel pieno rispetto dell'istituzione, non si terrà alcuna iniziativa. Il colonnello in mattinata ha invece partecipato all'atteso incontro in Confindustria, qui ha ribadito il forte legame tra i due paesi, grazie al patto di amicizia, ha detto Gheddafi, le nostre aziende potranno godere di un trattamento privilegiato. La Libia, ha detto ancora Gheddafi, non farà mancare mai all'Italia il fabbisogno di gas e petrolio di cui necessita. Il fronte imprenditori, poi, la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha parlato di momento di svolta nei rapporti tra i due paesi. Le imprese italiane che vorranno investire ed operare in Libia, ha detto ancora la presidente di Confindustria, potranno insediarsi in una zona franca che godrà di un trattamento economico e fiscale speciale, dall'esenzione per 5 anni delle tasse sul reddito ai prezzi scontati di elettricità e gas. L'ottavo giorno. Giovedì.

politico. Sono tutti avvenimenti, questi elencati, che sono tenuti insieme dalla grande fame di capitale pubblico, in questo caso europeo, che deve mantenere intere strutture di welfare che lo Stato italiano non, in realtà non riesce più a mantenere. Al sud Italia, appunto nelle nostre zone, l'Europa è vista come una nuova cassa del mezzogiorno. Venerdì. Per chiudere questa nostra carrellata dell'ultima settimana di fatti e protagonisti, vi diamo un paio di notizie sul fronte economico. La prima arriva dall'Italia. Ci spiega tutto Anna Marino. Ad aprile segnali positivi per la produzione industriale che dopo 11 mesi consecutivi di calo ha fatto segnare un più 1,1% rispetto a marzo. In crescita la produzione di beni di consumo ed energia, indicatore che molti esperti associano alla ripresa dell'industria. Segnale che si è interrotta la discesa, secondo il ministro allo sviluppo economico Claudio Scajola. Nelle ultime settimane, come autorevolmente è stato detto dall'OCSE e anche da altri autorevoli rappresentanti del mondo dell'economia globale, abbiamo passato il peggio a marzo, c'è un inizio timido di lenta ripresa. Conferme negative invece a livello tendenziale, cioè rispetto al 2008, perché il calo della produzione industriale ha toccato il 24,2%, dato peggiore dal 1991, ma comunque in linea con le previsioni. Aprile è stato un mese nero anche per la produzione di auto, giù del 31,2% rispetto a un anno fa. In forte calo poi il prodotto interno lordo nel primo trimestre dell'anno è sceso del 6% rispetto a un anno fa, flessione che si classifica come la peggiore dal 1980. La seconda notizia di cui vi voglio rendere conto riguarda invece il bollettino di giugno della BCE, la Banca Centrale Europea, che come al solito di questi tempi non fa sconti a nessuno. Riascoltiamo il servizio di Maria Chiara Grandis. Uno sforzo di risanamento per riportare le finanze dei paesi di Eurolandia in linea con i parametri di Maastricht. La Banca Centrale Europea non lascia spazio alle illusioni e prevede un forte incremento della spesa pubblica nell'area euro per il 2009. Secondo gli ultimi dati, il rapporto deficit-PIL sforerà il tetto del 3%, salendo oltre al 5% per arrivare a superare il 6% l'anno prossimo. Ma il dato più allarmante è la contrazione del prodotto interno lordo, che per la Banca Centrale Europea potrebbe arrivare a meno 5 nei 16 paesi dell'area euro. Ad aumentare rispetto allo scorso anno anche la disoccupazione, cresciuta di quasi 2 punti percentuali, toccando il 9,2%. Nel bollettino di giugno però c'è anche uno spiraglio d'ottimismo. Ci si aspetta che i tassi di crescita risultino positivi entro la metà del 2010, scrive la BCE, che aggiunge che dopo 2 trimestri di crescita negativa l'attività economica dovrebbe diminuire a ritmi più contenuti per il resto del 2009. Anche il clima di fiducia migliorerà se i governi si sforzeranno di risanare i conti pubblici. Abbiamo ancora l'ottava notizia della settimana da dare, che approfitto per utilizzare per appunto soffermarmi su quello che giovedì sancisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice ufficialmente che l'influenza, all'inizio suina, poi ribattezzata nuova influenza, è arrivata allo stato di pandemia. Non credo però che la maggiore diffusione dell'influenza suina debba anche aumentare la soglia della nostra preoccupazione. Su questo, al microfono di Anna Migliorati, interviene Gianni Rizzo, epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità. Si va in fase 6 quando, oltre a 2 paesi di un continente, si verifica la trasmissione almeno in un paese di un altro continente. Soprattutto si tratta di un virus, diciamo, diverso da quelli che circolavano prima. Il che non vuol dire che dia una sindrome più grave. Per noi in questo momento non cambia nulla, dal momento che stiamo operando delle misure di contenimento. Si parla anche, tra l'altro, in queste ore dell'ipotesi di vaccinazione di una larga fetta della popolazione. È eccessivo? Credo che sia plausibile tenere il più basso possibile il numero di casi che potranno verificarsi. Prima di chiudere ricordo la nostra mail ottavogiorno@radio24.it. Noi per oggi abbiamo finito, ringrazio Valerio Rocchetti in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 10 oppure in replica alle 23.